Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Cosa si dice sempre quando si parla di neutrini? Sì, vabbè, la solita storia, ci stanno attraversando in questo momento a miliardi. Ecco, sì, però sì. La domanda è tosta. Di carattere cosmico questa volta. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi incominciamo con i neutrini. Di neutrini abbiamo parlato spesso, ma Carlo questa volta ci chiede come si comportano in presenza di un buco nero. Startup ed empatia. Gli innovatori non devono solo avere buone idee, ma anche saperle comunicare con entusiasmo. Tutto ciò che pensate di sapere sul sangue e che invece non è come pensate. Breve viaggio lungo il fiume più importante per la nostra vita. Scienza connessa. Una ricerca del CNR sul popolo della rete. Partiamo con la domanda oggi? Sì, senza però dimenticarci che dobbiamo ricordare i contatti. Allora, per chi ci vuole scrivere, anzi ascoltatori, scriveteci perché abbiamo una sorpresa estiva. Sì, andremo in onda tutti i giorni ad agosto, quindi abbiamo bisogno delle vostre domande. Scatenatevi tramite la nostra mail, ovviamente, mebius@radio24.it. Oppure c'è anche Twitter, che è moebius_online. E poi Facebook, lo sapete, Mebius Scienza. Stiamo raggiungendo un po' il top delle amicizie, quindi adesso stiamo pensando a una fanpage. Adesso ci vuole per forza. Ci attrezziamo. Ma comunque andiamo subito alla domanda del nostro Carlo, una domanda di fisica. So che i neutrini hanno massa pari a zero o quasi, e so che praticamente non interagiscono quasi per niente con la materia che ci circonda. Vorrei sapere come questi si comportano in presenza di un buco nero. In particolare mi piacerebbe sapere se vengono anch'essi risucchiati dall'enorme forza gravitazionale o se riescono a fuggire. E per rispondere a questa domanda andiamo a Marsiglia, dove c'è un fisico importante ma italiano, Carlo Rovelli, un fisico teorico che insegna appunto all'Università di Marsiglia. Buonasera. Buonasera. Buonasera Rovelli. Allora, la domanda la sentite, effettivamente ha dentro una sua originale. Sì, è un aspetto questione. Originale, sì. Di solito abbiamo parlato di neutrini tante in tante volte, versioni. Sì, è una bella domanda, anche perché mette in luce una contraddizione. Da un lato si dice tutto cade nei buchi neri, tutto viene attratto dalla gravità, dall'altro si dice i neutrini viaggiano per l'universo senza sentire niente, non interagendo quasi con niente. E sembra esserci una contraddizione. La risposta è semplice, la risposta è che i neutrini che abbiano massa o che non abbiano massa vengono attirati dalla gravità, vengono attirati dai buchi neri e cadono dentro i buchi neri esattamente come tutto il resto della materia e come la luce che ha di cui pensiamo, sappiamo che la massa è zero e che pure essa cade, viene attirata dentro i buchi neri, può orbitare attorno ai buchi neri e cadere dentro. Quindi quando diciamo i neutrini passano attraverso tutto, come passano indisturbati attraverso le galassie come se niente fosse, non è vero. Qualcosa gli succede. Sono e come, esatto, e vengono risucchiati anch'essi dai buchi neri. No, in realtà, forse nell'immaginario si dice che non sfiorano la materia, non interagiscono, perché abbiamo in mente tutto quel discorso sul tunnel, sul famoso passaggio dei neutrini all'interno della Terra tra il CERN e il Gran Sasso. L'incresciosa incidente. Ma insomma, certo, si pensa che la materia per loro sia indifferente. Però un buco nero è un'altra roba. Interagiscono molto poco con tutto il resto della materia, ma la gravità no, la gravità, davanti alla gravità si inchina tutto. Si inchina tutto. Il buco nero è il regno della gravità e quindi si prende tutti i neutrini. Senta Rovelli, al volo però ci piacerebbe anche scambiare due chiacchiere, perché diventa di attualità, data questa domanda, su questo bel libro edito da Raffaello Cortina, Neutrino è il titolo, scritto da Frank Close. So che lei l'ha recensito per il domenicale del Sole 24 Ore. Mi pare che una cosa interessante di questo libro sia un po' la ricostruzione storica di come il neutrino si è affacciato nella ricerca in fisica. Molto bene, e so- soprattutto perché racconta la vita della fisica sperimentale come è per davvero, sui tempi lunghi, con i suoi successi, con i suoi successi. Il libro gira intorno a un personaggio che è Ray Davies, che ha avuto il premio Nobel nel 2002, perché ha fatto una cosa straordinaria, ci ha messo tutta una vita per farla, che è quella di riuscire a vedere i neutrini che vengono prodotti nel centro del Sole, il nostro Sole, a osservarli, misurarli, contare quanti sono, scoprire che non sono quelli quanti ci si aspettava, e attraverso questo capire qualche cosa sul neutrino e capire qualche cosa sul Sole. Il bello del libro è, io direi, l'insieme degli insuccessi, delle strade tentate che poi non hanno funzionato, dei momenti di entusiasmo che poi si spengono, che poi però pian piano si accumulano fino a arrivare alla chiarezza. E questa è un po' la scienza, secondo me, che non è la scienza dei grandi avvisi, dei grandi annunci sulle prime pagine dei giornali. L'aspetto molto duro della ricerca, sì. Certo. Però attraverso questo poi si riesce, come dice benissimo Frank Lowes, a vedere dentro il cuore delle stelle. E alla fine qualche cosa che sembrava completamente impossibile, avere un'occhiata diretta a quello che succede dentro il cuore del Sole, si riesce a farlo grazie ai neutrini, che da invisibili e imprendibili diventano dei nuovi occhi. Infatti, una particella così importante, ma così discreta, diciamo, è valsa poi anche un premio Nobel. È valsa un premio Nobel, sì. E ci permette di vedere dove pensavamo non saremmo mai riusciti. Non si potesse andare. Grazie Rovelli. Grazie Rovelli, buon lavoro. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pensavate che non ci fosse il quiz? Eccolo qua. Fra un po' sentirete parlare di sangue in questa trasmissione. Quale innovazione è stata fondamentale nella scienza del sangue e nelle sue applicazioni mediche? La prima, i materiali di gomma, ci scriverete gomma. L'avvento della plastica, ci scriverete plastica. E poi le scariche elettriche, e ci scriverete scariche. Come? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa volta è L'ombra dell'uomo di Jane Goodall, edito da Il Cannocchiale, e questo libro è offerto dalle librerie Rizzoli. Anche oggi ci interessiamo di innovazione, qui a Mebius, e per fare innovazione bisogna inventare qualcosa, per dirla semplicemente, avere un'idea. Però non basta, ci sono anche altri fattori importanti quando una start-up, si chiamano così le aziende nuovissime che nascono appunto intorno a un'idea, quando una start-up deve presentarsi e promuoversi, ci vogliono anche delle capacità di relazione, empatia, entusiasmo, sono ingredienti essenziali. Come mai vi parliamo di questo? Beh, c'è un'iniziativa che valuterà proprio questi aspetti, ma ne parliamo fra poco. Adesso invece saluto Riccardo Pietrabissa. Buonasera Pietrabissa. Buonasera. Allora, Riccardo Pietrabissa, presidente di Netval, che è il... Sì, è il network che riunisce le università italiane orientate a valorizzare la ricerca verso il mercato. Allora, ha sentito quello che ho detto, e cioè c'è bisogno anche di un insieme di fattori umani nel momento in cui si entra in relazione con investitori o soprattutto, per esempio, e qui ci interessa in modo particolare, altre aziende già consolidate, già magari sul mercato da tempo, che possono prendere la nuova idea che ci è venuta. Sono ingredienti importanti. Ma l'esperienza che noi abbiamo, avendo visto nascere tante piccole imprese nelle università italiane, è che molto spesso l'idea di business è buona, ovvero la tecnologia che addirittura sviluppa l'idea di business è buona, ma manca proprio il concetto del vado sul mercato. L'innamoramento per il prodotto è spesso prevalente, mentre sappiamo bene che un imprenditore si deve innamorare più del profitto che del proprio prodotto, cioè il prodotto deve essere strumento per l'impresa e non obiettivo. Questo è un tema difficile per chi è sempre stato abituato a fare ricerca, perché il ricercatore è un curioso, è uno che cerca di capire la qualità di ciò che fa, non tanto l'utilità prospettica per lui. Questa è un po' la difficoltà. Sulla simpatia è chiaro che sono doti personali, no? È difficile dire che è più simpatico l'impresa l'imprenditore, il venditore o il ricercatore. Sono caratteristiche personali, però probabilmente andrebbero curate un po' di più, no? Cioè la capacità di trasmettere un'attesa, cioè chi produce oggi prodotti nuovi deve far percepire al mercato che lui ne ha bisogno, che il mercato ne ha bisogno, e questo vuol dire mettersi nei panni altrui, no? Vuol dire comunicarlo, questa cosa. Vuol dire comunicarlo, vuol dire spogliarsi dell'aura del professore e diventare uno che convince. Tutto questo non è facile, però sui giovani, io conto molto sulle nuove generazioni da questo punto di vista, tutti contano sulle nuove generazioni, certo. Però questo è un tema importante. Io poi so che l'azienda valuta anche, chi quindi deve investire, valuta anche, come dire, una certa quota di entusiasmo che hanno questi che poi devono diventare i produttori, i realizzatori di un investimento. È un elemento importante, mi pare, soprattutto all'estero, no? Per esempio io ho avuto qualche esperienza in Inghilterra, lì ho visto che l'ottimismo e l'entusiasmo dell'innovatore è misurato come un valore forte. Ma sì, questo, se posso esprimere una preoccupazione rispetto a quello che succede in Italia e all'estero, è che noi abbiamo un entusiasmo, mi lasci dire, un po' categorico, no? Io sono ingegnere, io sono biotecnologo, mentre l'innovatore deve un po' spogliarsi dalle categorie, deve essere un entusiasta per uscire dal suo guscio, no? Mentre noi ci proteggiamo molto, quindi questo secondo me spaventa alcuni, no? Sì. Cioè l'innovatore deve essere uno pronto a cambiare tutti i giorni. Bene, Riccardo Pietravissa, grazie per questo suo contributo, e adesso andiamo a vedere dove tutto ciò potrebbe essere un po' misurato e valutato. Grazie Pietravissa e buon lavoro. Grazie, a presto, buonasera. Ed è qui con me Pierantonio Macola. Buonasera Pierantonio. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Amministratore delegato di SMAO, che è un'iniziativa che conosciamo tutti bene, a Bologna cercheremo di capire quali sono questi valori empatici. La data è 6-7 giugno. 6-7 giugno, quindi mercoledì e giovedì, è l'edizione SMAO di Bologna, a cui si abbina in realtà dall'anno scorso Research to Business, che è proprio un'iniziativa dedicata a raccontare la ricerca industriale alle piccole e medie imprese italiane. Ed è un'iniziativa che nasce all'interno di Aster, che è l'associazione delle quattro università emiliane. Allora, in questo appuntamento, che ci sarà il 6-7, ci sono presenti quanti startup? Allora, in questo appuntamento abbiamo più di 70 giovani startup che nascono spesso da spin-off di attività, diciamo, accademiche o universitarie. Sì. E voi proverete a testare in che modo questi fattori anche empatici, di simpatia, capacità di comunicare, si mettono insieme a una idea che naturalmente, certo, deve essere anche quella valutata. Com'è che si può fare? Ma allora, diciamo, intanto noi abbiamo un'esperienza molto concreta che in SMAO esiste da 6 o 7 anni, sono i percorsi di innovazione. Quindi abbiamo scoperto come per le startup è molto importante l'aspetto finanziario, l'investimento, ma ancora più importante è il contatto con l'industria, quindi imprenditori e manager, perché in realtà esiste proprio un grosso valore in questi matrimoni, in questi incontri che avvengono, e sono ritenuti le startup di gran lunga spesso più importanti dell'aspetto finanziario. Quindi l'idea è, sull'appuntamento di Bologna, che è appunto ancora una volta dedicato a imprenditori e manager, quindi noi in qualche modo attiriamo questi imprenditori e manager grazie a SMAO, quindi con l'offerta di innovazione tradizionale possibile grazie alle tecnologie digitali più moderne, e in realtà un po' come al supermercato, all'uscita, come una sorpresa, li facciamo incontrare con queste startup. Perché spesso anche dal lato dell'impresa e imprenditore non c'è questa consapevolezza, questa motivazione, diciamo, all'incontro con le startup. In realtà sono vere sorprese, perché si torna un po' all'origine vera dell'impresa in Italia, quindi alla capacità di accettare scommesse, di prendere responsabilità, sfide sul mercato, e quindi abbiamo visto che questo incontro in realtà poi porta veramente a dei matrimoni interessanti e porta queste startup a uscire dal loro alveo di startup spesso. Certo, ed è un incontro che è segnato, appunto, come si diceva anche prima con Pietravissa, da dei fatti precisi che riguardano l'idea, ma anche da tutti questi fattori umani che sono essenziali nel far scoccare la scintilla. Allora, voi chiamate Mebius a seguire questa cosa, noi lo facciamo con molto piacere. cosa ci sarà? Una specie di porcellone con una fessura e chiediamo a cosa potrebbero mettere dentro un biglietto da visita. È proprio così. Diciamo che abbiamo visto che quindi fondamentale rispetto all'esperienza che abbiamo sul campo è un cambiamento culturale. Per cui l'idea è proprio un premio in cui inviteremo gli imprenditori presenti a SMAO e Reserve to Business, che sono più di 4.000 in due giorni, a fare un giro nell'ambito di quest'area delle startup e poi alla fine arriveranno nello stand Moebius, in cui dovranno inserire in quest'urna un giudizio, ecco, come abbiamo un rating insomma personale che devono dare sulle persone che hanno visto, ma l'idea sarà proprio dare un giudizio sul carattere, ecco, non sulla bontà dell'iniziativa, ma siamo curiosi di stimolare questa valutazione da parte di imprenditori e manager circa persona. Esatto, la fiducia che provano nel gruppo che gli presenta un'idea. Esatto, perché l'idea è che tutti e due devono fare un piccolo passo in più, ecco, se vogliamo rafforzare questa dinamica così vincente che abbiamo visto nell'ambito di SMAO, dobbiamo da un lato non può più essere episodico l'incontro di imprese e startup, quindi dobbiamo fare agevolare questo cambiamento culturale, ma d'altra parte dobbiamo cercare di avvicinare imprenditori alle startup da un lato e startup agli imprenditori dall'altro, sapendo che è un mondo che deve parlarsi per definizione. Va bene, noi seguiremo, vediamo che cosa viene fuori e poi lo racconteremo in trasmissione. Grazie Macola. Grazie a tutti, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono qui in studio con Lisa Giupponi. Ciao Lisa. Ciao Federico. Ci diamo del tu perché siamo colleghi e tu stai frequentando il Master in Comunicazione Scientifica e Innovazione dell'Università Bicocca di Milano. Con te abbiamo scelto un tema che è abbastanza affascinante, il sangue, che è qualcosa che probabilmente molti di noi pensano di conoscere e invece ci sono tanti falsi miti che si possono sfatare. Sì, ci sono delle cose strane che... Tante curiosità. E per aiutarci ovviamente in questa cosa avevamo bisogno di un super esperto, una super esperta. Buonasera Gabriella Girelli. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, lei è docente ordinario di immunoematologia alla Sapienza di Roma. Pensavamo qui con Lisa di incominciare da una definizione. Com'è che possiamo definirlo, il sangue? Che cos'è? In due parole le potrei dire che il sangue è una linfa vitale. Ecco, per essere più precisi, diciamo che è un fluido che scorre nei vasi, che da lui prendono il nome, tant'è che siano vasi sanguigni, ed è costituito da una parte corpuscolata e da una parte liquida che sono presenti con una rigorosa proporzione. La parte corpuscolata è formata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, la parte liquida è costituita dal plasma. I globuli rossi portano l'ossigeno a tutti i tessuti del nostro corpo e i globuli bianchi ci difendono. Le piastrine ci proteggono da eventuali traumi ed eventuali emorragie. Il plasma, infine, è costituito da acqua senza dubbio, ma da numerosissime sostanze indispensabili per la nostra vita. E invece, rispetto ai gruppi sanguigni, ma sono diffusi diversamente nelle diverse aree geografiche o c'è un'omogeneità? Bene, i gruppi sanguigni si presentano nella specie umana delle differenze che riflettono le differenze etniche di una popolazione. Quando diamo le percentuali, ad esempio, noi diciamo in Italia il fenotipo 0 è presente per il 43% della popolazione, questa è una percentuale che si riferisce non solo all'Italia, bensì alla razza caucasica. Quindi non sono tantissime le differenze. Ascolti, non sono tantissime se noi parliamo di AB0 ed RH, che sono i due indubbiamente più conosciuti sistemi grupomatici, ma tenga conto che sono almeno 300 le strutture antigeniche a livello di un globulo rosso a tutt'oggi dimostrate. Quindi la distribuzione geografica riguarda anche le diversità che ci sono tra questo panorama amplissimo. Sì, assolutamente sì. Oh, senta. Un tema centrale ovviamente che tratteremo è quello delle trasfusioni, no? Quando è che nasce e si sviluppa insomma l'idea di che siano possibili queste trasfusioni? Ci sono stati dei tentativi abortiti antecedentemente alla data che le sto per dire e la prima vera trasfusione è stata fatta nel 1666 ed è intervenuta tra due cani ed ebbe un esito brillante. Dobbiamo attendere il XVII secolo invece per fare una prova tra animale ed uomo, cioè fu provato a trasfondere sangue di pecora in un uomo, che ovviamente l'esperimento non ebbe successo. Arriviamo al 1818, quando si trasfonde sangue di un uomo in un altro uomo affetto da un cancro dello stomaco. Ma il problema enorme stava nel fatto che Landsteiner non aveva ancora scoperto i gruppi sanguigni, cosa avvenuta nel 1900 con comunicazione scientifica intervenuta l'anno successivo, 1901, quando appunto fu scoperto il sistema AB0, che sta alla base della compatibilità trasfusionale. Sì, rispetto ai gruppi sanguigni, quindi il problema era legato proprio alla compatibilità tra donatore e ricevente. Cosa succede se un ricevente dovesse ricevere sangue diverso e incompatibile? Incompatibile. Ecco, diverso e incompatibile è assolutamente impossibile trasfondere, perché potrebbe andare di mezzo la vita della persona trasfusa. E questo per una regola molto semplice, che è questa. Nell'ambito del sistema AB0, ognuno di noi ha l'anticorpo per l'antigene, diciamo per la sostanza che non presenta. Se io sono di gruppo A, non ho l'antigene B e pertanto di regola ho in circolo un anticorpo anti-B. Se lei mi dà erroneamente sangue di gruppo B, il mio anticorpo immediatamente distrugge ciò che è stato trasfuso e l'emoglobina che fuoriesce dai globuli rossi trasfusi erroneamente causa un'insufficienza renale grave con probabile morte dell'individuo che l'ha ricevuta. Quindi molto grave l'effetto. Molto grave, sì. Mentre esistono diversità ma compatibili, ad esempio se un soggetto è di gruppo A, può ricevere tranquillamente un gruppo diverso che è zero, ma i globuli rossi zero sono donatori universali dal momento che, non esprimendo né l'antigene A né l'antigene B, possono essere ricevuti da qualunque tipologia di paziente. Gabriella Girelli, quando si parla di plastica tutti noi ci dividiamo, no? Perché vediamo dei grandi problemi, la plastica che inquina i mari, che non si riesce a biodegradare. Però giustamente molti sottolineano invece che tante cose sono state risolte in modo brillante e positivamente dalla plastica. La plastica, mi pare di capire insomma, che nell'universo sangue, la plastica, cioè quelle sacche, no, molli che contengono il sangue, sono state una svolta fondamentale. Indubbiamente il materiale plastico ha rivoluzionato il modo di trasfondere i pazienti. In che senso? Ha permesso ai medici di dare al paziente soltanto l'emocomponente, cioè quella parte di sangue che è necessaria al paziente. È difficile che un paziente che deve essere trasfuso abbia bisogno di tutte le componenti che abbiamo elencato all'inizio della trasmissione. Solitamente il paziente ha bisogno o di globuli rossi, o di piastrine, o di plasma. La plastica ha consentito di poter lavorare il sangue subito dopo la donazione e suddividerlo in queste tre componenti. Ha permesso pertanto alla plastica di effettuare una terapia detta mirata per il paziente che deve ricevere. Perché se io ho bisogno di uno di questi componenti e però così in un sbagliato senso del comunque va bene metto dentro tutto, in alcuni casi possono succedere dei disastri. Sì, perché potremmo creare, intanto abbiamo problemi di immunizzazioni contro sostanze, contro antigeni presenti su elementi del sangue che non ci servivano e un domani che ci servissero abbiamo problemi di compatibilità immunologica. Ma il problema forse più grosso è questo, che in un paziente ad esempio anemico il trasfondere sangue intero, quindi un volume maggiore di ciò di cui lui ha bisogno, potrebbe portare ad un sovraccarico di circolo con una insufficienza respiratoria che può creare seri problemi al paziente. Quindi bisogna dare esattamente la componente di cui serve. Il paziente ha bisogno. E questo, no, Lisa, credo che sia una delle immagini più sbagliate, perché moltissima gente pensa che il sangue che tiriamo fuori da un donatore è quello che va direttamente, invece proprio non è così. Assolutamente no, perché la sacca madre con la quale noi preleviamo il donatore è collegata a circuito chiuso con delle sacchettine satelliti nelle quali vanno ad immettersi le componenti dopo centrifugazione. Centrifugazione che non sarebbe stata resa possibile dal flacone di vetro perché non avrebbe resistito al trauma della forza di centrifuga. Un'ultima domanda, si può parlare di sangue artificiale? A che punto siamo con la ricerca? Allora, devo dire che i ricercatori sono molto impegnati in questo campo, anche perché è ben noto a tutti quanto drammaticamente difficile trovare sangue per tutti i pazienti che ne hanno necessità. Ancora oggi, purtroppo, interventi chirurgici programmati vengono spostati perché non c'è abbastanza sangue per sostenere l'intervento chirurgico e quindi quello di cui si dispone viene lasciato, no, per le emergenze. Allora, i tentativi ci sono, si sta molto lavorando, ma allo stato attuale delle conoscenze, purtroppo ancora la sperimentazione nell'uomo non è possibile. Ricordiamoci anche che nel caso in cui si arrivasse, il sangue artificiale non sostituirà i donatori di sangue, perché intanto parliamo solo di globuli rossi, mentre prima abbiamo detto che i pazienti hanno bisogno anche di piastrine o di plasma. Lo artificiale, nel vero senso della parola, in questo momento storico sembra quasi impossibile. Ecco. Sembra quasi impossibile. Ecco, una piastrina artificiale non la so immaginare. Questa. Gabriella Girelli, grazie. Abbiamo fatto questa prima parte con lei sugli aspetti, chiamiamoli pure più tecnici, più biologici, biomedici del sangue. Faremo una seconda puntata però su gli aspetti più storici, culturali, le tante vicende connesse, le al tante mito storie del sangue. Grazie Girelli, buon lavoro. Buon arrivederci. Sentite adesso che cosa vi racconta Chiara Albicocco. In questo momento ci troviamo nel Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e precisamente ci troviamo qui perché è stata appena inaugurata una nuova sezione che si chiama Sistema Energetico, Evoluzione e Rivoluzione. Siamo qui ovviamente con la curatrice scientifica del museo e curatrice anche di questa sezione. Si chiama Francesca Olivina ed è qui che ci aspetta. Ciao Francesca. Ciao a tutti. Vogliamo fare un giro con te in questa nuova sezione che si chiama Evoluzione e Rivoluzione, dedicata all'energia. Intanto perché avete scelto questo nome, questo concetto? Allora, perché il sistema energetico è una cosa che continuamente cambia per delle spinte che vengono dall'alto attraverso la legislazione, ma cambia anche attraverso i comportamenti che le persone possono avere. E questa cosa fa sì che questo cambiamento che sta avvenendo in questo momento specifico sia rivoluzionario, perché porta dei cambiamenti anche a livello sociale, ambientale, economico e così via. È una mostra permanente, quindi chiunque venga al museo può visitarla sempre, ed è dedicata anche ai più grandi, anzi soprattutto a quelli che hanno dai 14 anni in su, quelli che devono scegliere l'energia. Assolutamente sì, perché il museo ha un importante ruolo rispetto alla cittadinanza scientifica delle persone. Alle persone viene chiesto di fare delle scelte quando si vota, quando si fa un referendum, quando si sceglie, si comprano delle cose o si sceglie un fornitore energetico piuttosto che un altro, e quindi devono essere in grado di capire che cosa gli si sta chiedendo. Quindi rispetto all'energia il museo ha deciso di fare proprio questo, di aiutare queste persone. E allora entriamo e cominciamo a capire, ovviamente non abbiamo le immagini ma possiamo raccontar la voce, che cosa fate fare e che cosa raccontate ai visitatori che vi vengono a trovare. Come tutte le sezioni del museo, anche questa è una sezione che si compone di diverse cose. Noi abbiamo delle vetrine in cui esponiamo oggetti storici ed oggetti attuali, abbiamo dei video in cui intervistiamo delle persone, degli exhibit multimediali in cui permettiamo ai più giovani di giocare con gli argomenti, ma agli altri invece di capire di che cosa stiamo parlando. Abbiamo poi quelli che noi chiamiamo exhibit, cioè delle specie di giochi meccanici, multimediali, che devono essere toccati. Di solito uno al museo non tocca, mentre qui invece bisogna toccare per capire che cosa un fenomeno, piuttosto che una notizia, piuttosto che un'esigenza e così via. Ecco, allora facciamo ancora qualche passo avanti e qui ci fermiamo e ci zittiamo perché sta per iniziare un TG. Buongiorno da Lilli Gruviera e benvenuti a Energy News. Il telegiornale sul mondo dell'energia, con notizie e commenti scelti da voi. In studio con noi, Enrico Mentina. Buongiorno a tutti! La prima notizia di oggi. 5 miliardi di euro in 10 anni. È questo l'investimento dell'Europa nella smart grid, le reti intelligenti sulle quali viaggiano elettricità e dati. Produttori, trasportatori. Questa è la parte centrale dell'esposizione, è la parte che noi abbiamo deciso di dedicare ai temi spinosi rispetto all'energia. Sono spinosi perché o se ne parla tanto, magari anche non sapendone troppo, oppure perché sono magari un po' tecnici, ma è importante conoscerli. Quindi in questa sezione noi parliamo per esempio della giungla di opinioni intorno alle fonti rinnovabili, ma parliamo anche per esempio di smart grid, cioè di rete intelligente, cioè di questa rete che presto ci aiuterà a gestire più efficientemente l'energia attraverso per esempio anche la domotica. La cosa interessante che noto è che c'è proprio uno sguardo anche verso il futuro, quello che la comunità europea ci sta imponendo, di aumentare l'efficienza e di diminuire il consumo, è molto attuale, è con uno sguardo verso il futuro, diversamente da quelle che magari ci possiamo immaginare delle mostre sull'energia un po' più di vecchio stampo. Appunto, noi avevamo bisogno di far capire che appunto questo sistema energetico sta cambiando, che ci sono delle ricerche e che dalle nostre decisioni, dai cambiamenti che facciamo oggi, dipende la nostra vita futura. Infatti in sezione noi riportiamo anche delle visioni di cosa sarà il nostro futuro energetico fra 50, 100, 200 anni e a seconda appunto dei comportamenti che sceglieremo di prendere oggi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Scienza connessa, che cos'è? È il titolo di un libro, di una ricerca. È stata presentata di recente al CNR a Roma, è un volume edito da Gangemi e qui ho in collegamento Sveva Veduto. Buonasera Sveva. Buonasera. Che è direttore dell'Istituto Popolazione e Politiche Sociali del CNR e poi ho anche Fabio Fornasari. Buonasera Fornasari. Buonasera. Architetto che ha scritto uno dei saggi del libro dedicato al social networking e poi dopo vediamo di che si tratta. Allora, Avveduto, con lei il libro è un insieme di indagini, di ricerche, di dati veramente interessanti. Voi avete fatto una radiografia in tutte le direzioni di quello che è il consumo, l'utilizzo della rete. Io direi, rimandiamo certamente i nostri ascoltatori al testo, però ci sono due aspetti particolari che potremmo sui quali potremmo chiacchierare un po', che vengono fuori da questa vostra ricerca. C'è un primo aspetto nel quale voi avete indagato problemi di genere, i giovani, insomma, i consumatori divisi nelle varie possibili sfumature. Sì, certo, esatto. Come lei diceva, il libro è composito e complesso, quindi io sarò ovviamente costretta a dare soltanto dei flash di tutta una realtà che abbiamo analizzato. Ma io direi che vorrei partire da un piccolo mito da sfatare, il fatto che nell'uso della rete ci sono meno donne che uomini. Noi abbiamo fatto questa indagine per 3 anni di seguito e abbiamo quindi una serie di dati comparabili e abbastanza solidi. È vero in termini generali e complessivi che è così, però i dati bisogna saperli leggere perché i campioni statistici rispecchiano la struttura della popolazione italiana, dove le donne anziane prevalgono. Quindi leggendo però bene i dati si vede che in realtà se andiamo nella fascia giovane e quindi 16-24 anni non ci sono sostanziali differenze nell'uso della rete tra maschi e femmine. E sui giovani e la rete in particolare, ecco, quanto, come la usano? Anche lì ho visto così un po' al volo dei dati curiosi. Sì, sì, ci sono parecchi dati anche su questo. Beh, i giovani la usano prevalentemente in funzione di ovviamente di informazione e su questo per esempio abbiamo visto che un 30%, forse anche più, del campione la usa in sostituzione di altre fonti informative, quindi è l'unica fonte di informazione. Poi la usa ovviamente per scambiare, per farne un uso anche ludico, scaricare musica o sentirla, comunicare attraverso i social network, eccetera. 30% la usano come principale strumento di informazione, come unico come unico, però sono il 70%, no, perché c'è l'idea invece che sia quasi l'inverso, se non di più, cioè solo dalla rete, invece no, in fondo c'è un 70% che ci racconta che gli strumenti comunque li usa anche con altre fonti di informazione. Questo credo che sia, che sia importante. Un'altra parte del testo analizza la percezione della rete come strumento rischioso. Sì, esattamente. Della rete si ha una percezione molto polarizzata. C'è chi la immagina come uno strumento del tutto neutro, chi la immagina come uno strumento invece quasi pericoloso. Noi abbiamo fatto questa indagine anche qui sulla percezione del rischio e del beneficio che deriva dall'uso della rete. E anche qui abbiamo una serie di risultati abbastanza interessanti. Il beneficio è visto molto prevalente rispetto al rischio, quindi la percezione complessiva del campione degli italiani, ripeto, in questi tre anni, 2009-2011, è che i benefici superino i rischi. Quali sono i benefici? La possibilità di comunicare, la possibilità appunto di avere informazioni, la possibilità di svolgere anche delle operazioni anche di tipo commerciale, bancario, eccetera. Parliamo sempre, ripeto, di percentuali di uso abbastanza piccole, però questa è la fonte, diciamo, di beneficio percepita. Quanto a quella del rischio, che ripeto è inferiore come percezione a quella dei benefici, le persone hanno paura di un uso malevolo della rete, nel senso furti di identità, furti di dati, codici o quello che sia. E poi è stato rilevato anche un pericolo di dipendenza unito a un pericolo di isolamento, cioè questa è la parte in cui ci si sente più esposti, come dire, entrare nella rete può significare essere tagliati fuori o dipendere troppo dalla rete. Quello che invece non è affatto percepito è quello che in realtà è forse il rischio maggiore, e cioè il rischio di perdita della privacy. Soprattutto i giovani, ai quali abbiamo detto: ma tu usi un certo tipo di attenzione nel mettere in rete notizie, fotografie, in realtà questa percezione non c'è, c'è molto poco. Solo un 15% del nostro campione ha detto che la privacy è a rischio nel momento in cui si entra in rete. Passo a Fabio Fornasari. Lei ha curato tutta la parte di social networking. Lascio a lei una rapidissima definizione di social networking. Il social networking, dal mio punto di vista, è il tema della condivisione, dell'occupare uno spazio che è quello, diciamo così, immateriale, virtuale, in realtà, attraverso tutto il nostro modo di essere e di costruire relazioni con le altre persone, utilizzando tutti quegli elementi che arrivano da questa tecnologia, indubbiamente una tecnologia, proprio per ricostruire e rimappare il nostro stare all'interno di uno spazio che non è fisico, ma è appunto immateriale. Con tutti gli strumenti che possiamo avere, dalla più classica e più antica, tra virgolette, mail, fino a tutti gli strumenti più Twitter e Facebook, che sono relativamente più recenti. Ecco, però lei nel suo testo dice che dobbiamo proprio pensare a questo spazio come uno spazio altrettanto concreto di quello fisico che sta fuori e che non è digitale. Dobbiamo fare questo sforzo. Sì, certamente, anche perché tutto ciò che è anche fisico comunque è un'immagine nella nostra testa. E quindi anche la rete è un'immagine nella nostra testa. Noi pensiamo per immagini. E quindi, pensando per immagini, il controllo, come dire, delle cose che abbiamo intorno alle nostre stanze, la stessa stanza nella quale si trova lei, quella dove mi trovo io, lei ne ha una mappatura, cioè sa perfettamente dove stanno le cose delle quali ho bisogno, dove è il microfono, dove è la regia, così come, così altrettanto, quando si sta nella rete bisogna avere questa consapevolezza, e qui richiamo il tema della privacy. Solo nel momento in cui mi rendo conto, ho una mappatura precisa del territorio che io sto utilizzando, riesco anche a proteggerlo, perché se non ho questa dimensione di controllo e penso che sia una cosa che sta altrove, distante, lontano da me, è lì che allora scatta il rischio, perché se io non controllo un territorio mi ci perdo. Quindi lei dice anche per gli utilizzatori forti di questo spazio ci deve essere un'ulteriore comprensione di quanto esso sia concreto e materiale, ecco. Certo, tutti quanti noi abbiamo il nostro tempo, ovviamente nella rete ci siamo da meno tempo, al di là del tema nativi digitali, di altra natura, che mi fa sempre un pochino sorridere, perché io guardo la rete sempre non dal punto di vista del futurologo, del tecnologo, ma appunto dell'abitante, dove uso la rete per abitare lo spazio, non abito la rete. Mm. E questo saggio appunto sulla mappatura intende dire proprio questo, cioè imparare a capire che in fin dei conti la rete è esattamente in qualsiasi altro spazio, e va conosciuto e dominato. Grazie Fornasari e grazie a Veduto. Grazie a voi, buonasera. A voi. Buona serata e buon lavoro. Succede la seguente cosa, che però me la racconta Chiara Albicocco. Si chiama Every Aware, cioè tutti consapevoli, ed è un progetto della Comunità Europea sulla consapevolezza ambientale. Qui con noi stasera il coordinatore, ovviamente, del progetto, che è anche fisico dell'Università La Sapienza. Buonasera Vittorio Loreto. Buonasera a tutti. Ci racconti di che progetto si tratta? Certo, allora il progetto è un progetto europeo che ha due obiettivi fondamentali. Il primo è quello di incentivare la consapevolezza dei cittadini, quindi dei singoli individui, su questioni di tipo ambientale. Il modo in cui lo facciamo è utilizzando in maniera molto massiccia e mirata le nuove tecnologie della comunicazione e delle informazioni, quindi diciamo il web, ma anche telefonini, ma anche sensori. Il secondo obiettivo è quello invece un po' più scientifico, che è quello di studiare in qualche modo e comprendere i meccanismi che ci portano alla formazione delle opinioni e dei nostri comportamenti. In qualche modo l'idea di base del progetto è quella diciamo non statica, ma molto dinamica, di coinvolgere direttamente i cittadini, quindi gli individui, nel monitoraggio dell'ambiente in cui vivono e anche delle condizioni di vita in cui vivono, con il principio un po' diciamo ispiratore che si impara molto facendo delle attività piuttosto che ascoltando diciamo in maniera passiva delle lezioni, ed è un principio che in realtà sta andando un po' di moda negli ultimi anni, che insomma in gergo anglosassone si chiama citizen science, cioè la scienza del cittadino, che è un po' l'idea di coinvolgere quindi singoli cittadini in operazioni che sono però veramente scientifiche, di monitoraggio, ma non solo, anche di compartecipazione a quali sono le finalità, gli obiettivi, i metodi e soprattutto poi i risultati che si ottengono. Infatti proprio per questo obiettivo voi state organizzando l'evento, il primo evento nazionale, si terrà a Roma, se non sbaglio sabato prossimo 9 giugno, che cosa farete? Ci saranno tutta una serie di attività in cui le persone, se vorranno raggiungerci poi a Roma presso la libreria Assaggi di San Lorenzo, insomma, potranno essere coinvolte se vorranno, quindi ci sono varie attività. La prima, che cosa gli farete fare loro? La prima attività l'abbiamo denominata caccia al decibel. L'idea è che se insomma le persone ci raggiungeranno a San Lorenzo con il loro cellulare, smartphone, con una connessione internet, gli chiederemo di passeggiare per il quartiere e di tanto in tanto prendere una misura del livello di rumore in decibel appunto, e quindi tutte queste misure poi contribuiranno alla creazione di una mappa dell'inquinamento acustico in quel quartiere, che tra l'altro è un problema in cui in realtà il problema è particolarmente sentito per la confusione notturna. In realtà l'applicazione che poi noi daremo gratuitamente a tutte le persone che vorranno può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale, in realtà su tutto il pianeta, e quindi ognuno, anche non venendo a Roma, potrà poi fare le proprie misure nell'ambiente in cui vive. Questa è la prima attività, poi in realtà misureranno anche altri parametri. Sì, in realtà la seconda attività in cui le coinvolgeremo è una vera attività di gioco tramite una piattaforma web che serve per realizzare esperimenti nell'ambito delle scienze sociali, la fisica dei sistemi complessi, le dinamiche urbane. Quindi l'idea è che sia da casa, ma sia poi ci sarà uno stand permanente lì presso la libreria, si potrà arrivare, giocare a questi giochi e quindi contribuire a raccogliere dati su questioni specifiche e scientifiche. E la terza attività, quella a cui forse si riferiva, è l'idea di monitorare parametri della qualità dell'aria. Eccola qua. Quindi sarà una cosa molto vivace, perché ci saranno dei nostri ricercatori che andranno in giro per il quartiere in bicicletta o a piedi con degli strumenti per misurare parametri inquinanti come l'ossido di carbonio, il biossido d'azoto, eccetera, eccetera. Delle piccole stazioni climatiche portatili. Esattamente. Tutto sarà visibile in tempo reale all'interno della libreria. Ecco, lo scopo un po' di tutto questo è appunto far partecipare il cittadino, avere questa forte consapevolezza dell'ambiente, di quello che ci sta intorno. Esattamente, ma il principio da cui siamo partiti è che in qualche modo, se vogliamo stimolare, ovviamente non saremo noi a farlo da soli, però insomma se vogliamo stimolare un cambiamento dei nostri stili di vita, in meglio ovviamente, e della qualità della nostra vita, probabilmente dobbiamo partire con uno sforzo dal basso, in cui ognuno fa la propria parte. E quindi un passo fondamentale in questa direzione è quella di prendere consapevolezza delle proprie condizioni, perché soltanto in questo modo poi potremmo anche cominciare a cambiare anche in piccolo i nostri comportamenti, dare esempi e poi sperare che questo tipo di cambiamento si diffonda a tutti quanti gli altri, quindi a livello della collettività. Poi una volta che questo succede è un meccanismo virtuoso che si può in qualche modo innescare, perché persone molto motivate all'interno di comunità possono poi fare pressioni a livello di enti locali, amministratori eccetera eccetera, perché si facciano tutta una serie di operazioni. Però insomma, in qualche modo stiamo mettendo al centro il cittadino, un po' responsabile della gestione delle risorse in comune che tutti condividiamo. Allora Loreto, ricordiamo l'appuntamento? L'appuntamento è sabato prossimo 9 giugno, direi tutta la giornata, insomma dalle 10 in poi fino a sera inoltrata, presso la libreria Saggi a Roma, nella zona San Lorenzo. Dove possiamo trovare il programma e tutte le informazioni sulle app, sui giochi e tutto quello che ci ha detto? Tutte le informazioni sul sito del progetto, si trova tutto, il sito del progetto è www.everyaware.eu, come tutti consapevoli. Se non lo trovate, se non avete capito bene, lo trovate sul nostro sito. Va bene, grazie Loreto e allora ci vediamo sabato. Grazie mille a voi. Così, all'improvviso, ecco che un'ora è passata. Spero che questa puntata di Möbius vi sia piaciuta e quindi appuntamento qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.